Ogni giorno è difficile guardare avanti, andiamo sempre peggio tra mille pianti. Oggi il mondo aspetta solo vederti cadere, il nemico ad ogni sconfitta potrà godere. Spesso pianto rimanendo solo ed in silenzio, la gente invece piange per farsi spazio. Oggi poter guardare in faccia al nostro futuro è diventato difficile, ma tengo duro. Su questa strada cammino fra tante persone, il loro volto ha perso ogni emozione. Questo pezzo lo dedico a chi si sente solo, te ne ho spezzato le ali mentre eri in volo. Tra chi ha perso quel coraggio di guardarsi, vedere i suoi sogni sempre più tramontarsi. Hai perso il lavoro ma no la tua vita, dichiara guerra perché non è mai finita. So quanto è difficile e spesso impossibile sentirti schiavo di questa vita inutile. Rispondi presente a chi vuole tagliarti fuori e vendi la tua pelle cara come gli eroi. Metti al centro sempre i sogni e non il dolore, e cerchi in ogni cosa sempre il lato migliore. Ora finché puoi riprendi in mano la tua vita, perché come in ogni cosa non è mai finita. Scrivo questo testo, beh sì, lo dico a te, perché sono rimasto solo anche come te. Io ho dato sempre spazio ad ogni mio dolore, per poi rimpiazzarlo con il mio tanto ardore. Molte volte la gente mi dice che ho sbagliato, ma che sia vero o no almeno io l'ho fatto. Non sono le scelte che ci rendono grandi, ma le battaglie per i tuoi traguardi. Ad ogni vittoria ricorda sempre la sconfitta, per apprezzare di più quando arrivi in vetta. Guarderai chi ha infranto ogni tuo sogno, chi ti ha respinto quando ne avevi bisogno. Allora beh, capirai che ti starà vicino, anche se sbaglierai sempre come un bambino. Perché sbagliare non ci rende così diversi, i miei errori li ho tradotti in questi versi. So quanto è difficile e spesso impossibile sentirti schiavo di questa vita inutile. Rispondi presente a chi vuole tagliarti fuori e vendi la tua pelle cara come gli eroi. Metti al centro sempre i sogni e non il dolore, e cerchi in ogni cosa sempre il lato migliore. Ora finché puoi riprendi in mano la tua vita, perché come in ogni cosa non è mai finita. Ho scritto questo pezzo per chi vuole ascoltare, metti che forti per poter farla arrivare. Nel mio cammino armato di poco orgoglio e di tutto il dolore su questo foglio. Spero di essere chiaro in ogni parola, nessuna persona in questa vita è sola. Mi faccio profeta di parole in questo testo, cerca di ascoltare per capire ogni mio gesto. Se il mondo cade a pezzi ma i sogni no, chi dice il contrario io non ci sto. Noi restiamo in gioco senza vincere mai, l'importante resta non mollare mai. Chiudo questo quaderno sporco d'inchiostro, che soprattutto ogni pensiero diventi vostro, con la speranza che ogni giorno di dolore sia cancellato sempre con un giorno migliore. So quanto è difficile e spesso impossibile sentirti schiavo di questa vita inutile. Rispondi presente a chi vuole tagliarti fuori e vendi la tua pelle cara come gli eroi. Metti al centro sempre i sogni e non il dolore, e cerchi in ogni cosa sempre il lato migliore. Ora finché puoi riprendi in mano la tua vita, perché come in ogni cosa non è mai finita.